Early Bird Special, già signori e signore, o meglio, passerottine e passerottine care, come amo chiamare il mio pubblico. Questa è la primissima colazione che serviamo calda e fragrante, dalle frequenze di Rock FM, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7. Sì signori, è un lavoro duro ma qualcuno lo deve pur fare. E qui con voi c'è Chuck Bird, con la sua grande musica, dopo Dire Straits, Solid Rock, Doctor and the Medics, ve la ricordate? Spirit in the Sky. To be a Beatles, sempre graditi ospiti all'Early Bird Special. Un vero peccato che i Beatles, per colpa di una tecnologia non adatta a supportare i loro concerti negli stadi, abbia smesso prestissimo di esibirsi dal vivo. Invece gli AC/DC ne hanno combinate di ogni sul palco. Campane da 2,5 tonnellate, intere batterie di cannoni e fumogeni nella borsa di Angus Young. Ma vi racconterò tutto nei dettagli dopo averci ascoltato i Black Crowes. She Talks to Angels. Never mentions the word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. Her eyes as black as night now, pulls those shades down tight. Yeah, she gives a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright. A lock of hair in her pocket. She wears a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross is someone she has not met. Yeah. pulls those shades down tight. Oh yeah, there's a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright. Alright, yeah, yeah. She talks to Angel. There's a call around by her name. Black Crowes, She Talks to Angels, ma non è dei Black Crowes che vi voglio parlare, ma degli AC/DC. Gli AC/DC sono noti per essere una delle band più spettacolari dal vivo. Il merito va sicuramente al loro rock and roll incendiario, a quelle canzoni capaci di scuotere il mondo da almeno tre generazioni. Non dimentichiamoci però anche delle loro intuizioni geniali, quelle idee che arricchirono con gli anni i loro show. Come le campane che risuonano nell'introduzione di Hell's Bells. Suonavano così bene in studio che la band decise di portarsi appresso in tour due campane da 2,5 tonnellate ciascuna. E quando uscì For Those About to Rock, ci fu la storia dei cannoni. La storia dei cannoni, pensate che venne fuori durante le pause di una sessione di prove organizzata in Francia. Alla televisione stavano trasmettendo le note del Principe Carlo con Lady Diana, e si potevano sentire i cannoni che sparavano a salve per salutare il sì che i due dissero in chiesa. All'inizio gli AC/DC si portarono dietro 21 cannoni che sparavano scintille ovunque, presto sostituite per evidenti motivi logistici da solo due cannoni posti al lato del palco. Ma non tutti i trucchi funzionarono alla perfezione. Angus Young, chitarrista della band, confessò che una volta aveva infilato un candelotto fumogeno nella cartellina che faceva parte del suo costume da studentello che usa dal vivo. Ebbene, il candelotto, una volta acceso, fuse la borsa, la plastica colò sulle sue gambe, ustionandolo. Ancora oggi Angus Young non ha peli sulla gamba destra. A me a questo punto è venuta voglia di ascoltarli gli AC/DC. A voi? Ehi, ehi, ehi, fermi con quei fumogeni! Thank God it's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Siete pronti per il weekend rock and roll che ci aspetta? Io scommetto proprio di sì. E se avete iniziato la giornata con l'Early Bird Special, avete iniziato con il piede giusto. Purtroppo la trasmissione finisce qui. Ci risentiamo lunedì, sempre dalle 6 alle 7, sempre dalle frequenze di Rock FM. Vi lascio con Pane Burro Rock and Roll, con l'Ariele e Freak Anthony. Da Chuck Bird è tutto. Aloha!